Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo soprattutto nella seconda ora del doppio incontro Presidente del Consiglio Renzi oggi all'Assemblea degli Industriali Bresciani e poi in visita a due stabilimenti. Sì, le contestazioni che vi sono state, ma anche le dichiarazioni di Renzi, le dichiarazioni del Presidente Confindustria Squinzi. Nel giorno in cui la borsa fa di nuovo notizia, non tanto per l'indice, meno 1,80%, è un calo, c'è tutto, Parigi perde lo 0,90, Francoforte lo 0,60, Londra meno 0,90, l'America meno 0,12. Dicevo, non tanto sull'indice, quanto su alcuni titoli, in particolare Snam, meno 11% quasi il titolo, e ne parleremo perché va male Snam, ma va male anche Terna, che perde il 6,70%. Per cento, Enel perde il 3,80%. Sono casi abbastanza diversi. Su Snam ci sono, pesano i nuovi criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2015-2018. L'autorità per l'energia ha fissato il tasso di remunerazione del capitale investito netto al 6%, era prima al 6,7%. Non piace questo agli analisti, vi sarebbe un impatto negativo sugli utili tra il 6 e il 9% rispetto alle stime attuali per Snam. Terna, sugli stessi motivi, perde il 6,70%. E poi c'è il caso Moncler, che è un caso a cavallo tra, diciamo, stampa, media e borsa, meno 4,70% dopo l'inchiesta di ieri di Report di Milena Gabanelli. La società Moncler ha già detto che ha messo in mano le accuse agli avvocati, presenterà querela, immagino. Chi non l'avesse visto, c'era un'inchiesta che metteva in evidenza come in Ungheria le oche venissero maltrattate per il piumaggio e nel piumaggio per prendere le piume. In realtà c'è stata un'ondata di tweet e di fermento sui social network, tutti negativi, e il titolo perde il 4,70%. Qui è interessante la valutazione, dicevo, a cavallo tra media, quindi reputazione media, e borsa, perché in realtà non c'è nessuna notizia di mercato in senso stretto, però la proiezione che fanno molti analisti è che, stavo per dire animalisti con un lapsus freudiano, però è che vi possa essere un danno d'immagine, è certo ed è già acclarato, ma anche nelle vendite, perché sappiamo che poi i temi relativi alla corporate image, all'immagine, alla reputazione dell'azienda, sono temi che vanno poi a impattare anche direttamente sulle vendite. Ne sa qualcosa la Nestlé, che ha pagato per anni, uno può dire giustamente, lo scandalo del latte in polvere alle donne africane, il boicottaggio. Ecco, in questo caso non possiamo parlare di boicottaggio perché non c'è ancora nessun boicottaggio ufficiale, ma il timore è che una volta che tu marchi un marchio come non rispettoso della tutela anche sugli animali, in questo caso sulle oche, oltre che il maltrattamento delle oche, c'erano anche delle accuse su margini ingiustificatamente alti. Il costo del piumino sarebbe di 60 euro e il prezzo finale alla vendita di 1200 euro. Ma al di là di questo, il ragionamento che si fa è sull'impatto che potrebbero avere le vendite. Per quello che riguarda il mercato, segnalo anche che l'euro è, a mio avviso per fortuna, in indebolimento a 1,2480 nei confronti del dollaro. So che alcuni mi diranno: ma questo vuol dire una bolletta energetica più alta? Sì, però il petrolio resta intorno agli 80 dollari al barile, per la precisione a 80 esatti, e quindi su livelli bassi ci si può permettere anche un dollaro un po' più forte, che però va a vantaggio delle nostre esportazioni, perché il dollaro più forte significa ovviamente euro più debole e quindi un leggero vantaggio nelle nostre esportazioni. Ricordo che fino a qualche mese fa il rapporto euro-dollaro era 1,40, 1,41, siamo a 1,24, quindi insomma un po' di calo c'è stato. Parleremo di questo, dicevo, della vicenda di Borsa, ma anche della vicenda AST Terni. Abbiamo cercato ripetutamente l'amministratore delegato dell'AST Terni e anche il capo del personale, il quale ci ha fatto sapere che l'indicazione che è arrivata al gruppo è di non rilasciare dichiarazioni in merito a che cosa? Non in merito agli esuberi, ma in merito a una vicenda di cui obiettivamente si poteva anche fare a meno, e cioè il fatto che l'amministratore delegato dell'AST Terni, Lucio Morselli, ha bloccato il pagamento degli stipendi dei dipendenti fino al termine degli scioperi in fabbrica. C'è addirittura l'estremo per una denuncia per atteggiamento antisindacale, ma io dico, al di là degli estremi di legge, in questo momento in cui la vicenda è delicatissima, si cerca di avere il minor numero di esuberi possibili. Bloccare gli stipendi di tutti i dipendenti finché non terminano gli scioperi, quando questi scioperi obiettivamente non sono nati così, dall'esigenza di avere una tredicesima in più, ma dal capire se resterà in piedi o no lo stabilimento degli acciai speciali di Terni, beh, mi sembra un po' gettare benzina sul fuoco. Lo dico con massimo rispetto per un manager nella sua autonomia, però insomma, non so se l'indicazione sia arrivata dalla casa madre tedesca, però la ThyssenKrupp farebbe bene, visto anche il precedente non bello giudiziario che ha in questo paese, che non c'entra niente con Terni, ci mancherebbe, però insomma, anche avere un profilo un po' più basso permetterebbe a tutti gli animi di non surriscaldarsi e forse di arrivare a un accordo il meno doloroso possibile per i dipendenti di AST Terni, e pur rispettando quelle che possono essere le esigenze della casa madre ThyssenKrupp. Già non gode di buona stampa, ecco, evitiamo di contribuire ulteriormente. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, e rapidamente le altre notizie in breve. Allora, vedo già una marea di sms sulla Moncler, sulle oche, sul fatto che non si possa spacciare come made in Italy in made in Ungheria o Moldova. Devo dire, non nessun, qui molti scrivono che non comprano mai più un piumino con la piuma dentro, vedendo spellare gli animali. Addirittura io ho già buttato il mio piumino Moncler perché da ora mi vergogno a metterlo, a farmi vedere in giro. Ok, va bene, insomma, l'effetto secondo me è quasi da caso di studio, perché ci sono tanti convegni sulla CSR, sulla corporate social responsibility, sull'immagine, su come si costruisce, e sembrano sempre cose molto aleatorie. In realtà, quando poi lavori sul mercato retail, sui consumatori finali, non sono aleatorie, perché lo SP, che non è spiumamento in questo caso, ha un impatto immediato poi sulle vendite e sui temi legati all'ambiente e agli animali. Bisogna stare molto molto attenti, perché i movimenti lì sono fortissimi, ne sappiamo qualcosa anche a Radio 24 per via di vicende degli anni passati. Allora, vediamo l'Italia. Intanto la Banca Centrale Europea oggi ha fatto sapere che al 31 ottobre aveva già comprato 4 miliardi e 800 milioni di obbligazioni garantite nella nota sul terzo programma di acquisto di covered bond. Ma dicevo, l'Italia, c'è una contrazione purtroppo nuova dell'attività manifatturiera in Italia, e l'indice PMI viene rivisto a 49 punti contro i 50 della prima lettura. Ancora oggi l'Istat prevede un calo quest'anno del PIL, ormai ci siamo, nel senso che il 2014 si sta per chiudere, dello 0,3%, in linea con le stime del governo, e più 0,5% l'anno prossimo e più 1% nel 2016. Rispetto alle sue precedenti stime, l'Istat rivede al ribasso quest'anno il nostro PIL dello 0,9%, cioè da un più 0,6% a un meno 0,3%. E poi aggiunge, nel 2015 vi sarà la fine della recessione. Io faccio notare che già l'aveva detto per il 2014, però speriamo che non sbagli una seconda volta. Dicevo, tornerà debolmente positiva, ma la crescita resterà debole, ci dovrebbe essere comunque un più 0,5% che chiuderebbe la lunga recessione del triennio precedente, perché 3 anni a questo punto che chiudiamo col segno meno. Gli effetti della manovra sono positivi sul 2014, ma poi saranno nulli, avranno un impatto marginalmente positivo quest'anno ed un effetto cumulativo netto nullo nel biennio successivo. Perché questo? Perché, dice l'Istat, il bonus degli famosi 80 euro avrà un effetto positivo, ma verrà controbilanciato come effetto negativo dalla clausola di salvaguardia, quella che prevede che se tu sfori, non stai nei patti, in automatico vai a aumentare l'IVA. Se non stai nei patti, se non riesci a reperire le risorse necessarie. Una buona notizia arriva dalle famiglie italiane, che dopo 3 anni di calo, nel 2014 la spesa delle famiglie italiane dovrebbe tornare a essere cresciuta più 0,3% nel finale. E questa mattina ne parleremo nella seconda ora del programma. Comunque, Assemblea degli Industriali di Brescia, con gli interventi del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e del Presidente di Confindustria Squinzi. Fuori dall'Assemblea le contestazioni da parte della FIOM, che ha denunciato Renzi non ci ha ricevuto, vergogna, ma anche tafferugli originati dal corteo dei centri sociali, 2 ferite dalle forze dell'ordine. Il presidente Confindustria Squinzi ha detto bene il fardello che Renzi si è assunto, un pesante fardello di far uscire l'Italia dalle secche di regole e culture sorpassate che ci condurrebbero a un inesorabile declino. Signor Presidente del Consiglio, lei si è assunto il pesante fardello di far uscire l'Italia dalle secche di regole e culture sorpassate che sappiamo ci condurrebbero a un lento ma inarrestabile declino. Di questo arduo impegno non possiamo che esserle grati. Se ne sentiva la necessità. Non bisogna temere, anzi bisogna attendersi qualche dispiacere e non poco dissenso. Sono resistenze dovute a inerzie e privilegi del passato, di cui un po' tutti hanno beneficiato. Qui, come in altre nostre assemblee, ha troccato con mano che non è e non sarà solo. Ancora sulla legge di stabilità, il presidente di Confindustria Squinzi dice: va bene l'impianto, si può fare di più, agire su ricerca e investimenti e anche su una riduzione dell'IMU per le imprese, ma ribadisce Squinzi, c'è comunque una significativa discontinuità rispetto al passato. E poi il presidente del Consiglio, ripeto, ne avremo ampio spazio più avanti, dice: io non sono un uomo solo al comando, è il paese che vuole cambiare. 3 mesi fa eravamo una banda di ragazzini, ora che stiamo facendo le riforme siamo diventati la quintessenza dei poteri forti, la lunga manus di chissà quali disegni, gli uomini soli al comando. Ma non c'è un uomo solo al comando, c'è un popolo che chiede di cambiare per sempre. E poi sul tema del lavoro, dobbiamo evitare un rischio pazzesco, ha continuato Renzi, c'è un disegno per dividere il mondo del lavoro, per spaccare in due l'Italia. È calcolato, studiato e progettato un disegno in queste settimane che vuole dividere il mondo del lavoro. C'è l'idea di fare del lavoro il luogo dello scontro. C'è l'idea di mettere gli uni contro gli altri gli operatori del mondo del lavoro. È una delle idee che ha fermato l'Italia e bloccato l'Italia. Se abbiamo perso 20 anni è perché si è pensato che attraverso manifestazioni e proteste si potesse dividere in due il mondo del lavoro, dividendo magari l'Italia dei lavoratori e l'Italia dei padroni. Io sono qui oggi a Confindustria per dirvi che non esiste una doppia Italia, esiste una Italia, e dico a Brescia unica e indivisibile, l'Italia una, unica e indivisibile, che è l'Italia di chi vuol bene ai propri figli, che faccia l'imprenditore o che faccia il lavoratore. E questa Italia non consentirà a nessuno di scendere nello scontro verbale e non soltanto verbale legato al mondo del lavoro. Vogliono contestare il governo? È un loro diritto. Vogliono cambiare il Presidente del Consiglio? Ci provino, io devo cambiare il Paese, non posso preoccuparmi di questo. Però posso dire una cosa, se vogliono contestare, contestino senza fare del diritto del lavoro, del mondo del lavoro, del dolore di un cassintegrato, della sofferenza di un precario di cui non parla più nessuno, della inquietudine di una mamma che non ha la maternità perché non è dentro un'azienda, delle difficoltà di chi sta fuori del mondo del lavoro, senza fare di tutti costoro il campo di gioco di uno scontro politico. Ancora sempre, vedo molti messaggi anche su questo, ne parleremo più avanti. Renzi ha parlato anche della pubblica amministrazione, ma adesso ci arrivo perché qualche notizia ce l'abbiamo oggi sulle regioni e sulla pubblica amministrazione, sui bonus, sui premi, scusatemi per il raggiungimento degli obiettivi, interessanti come vengono dati. Dicevo, per quello che riguarda la borsa, ne parliamo più avanti, sì, titolo Monte dei Paschi sale del 3,5% oggi, continua a essere forte la notizia per cui la banca senese procederà ad un maxi aumento di capitale per reperire i 2 miliardi e 100 milioni evidenziati dagli stress test, ma a spingere il titolo anche l'annuncio del socio francese AXA, gruppo assicurativo, al 3,7% del Monte dei Paschi, che si è detto disponibile a sottoscrivere il nuovo aumento di capitale, già un altro è stato fatto prima dell'estate da 5 miliardi di euro. In rialzo anche la Cassa di Risparmio di Genova, l'altra banca bocciata, guadagna 4,50%, deve trovare 813 milioni di aumento di capitale, ha già comunicato l'aumento di capitale da 500 milioni, la cessione di asset per 300 milioni e poi vi sarebbe il finanziere Andrea Bonomi interessato a partecipare alla ricapitalizzazione con una quota del 20%. Allora, il nostro appello va anche oggi al Fondo per la Non Autosufficienza. Ho visto che il ministro Lorenzin, Beatrice Lorenzin, ministro della Salute, ha detto i fondi per le non autosufficienze, inclusi la SLA, sono sempre stati trovati in Parlamento. Mi sembrerebbe molto strano se non si trovassero 100 milioni. Ho riscontrato una ferma volontà di reperire questi fondi. Noi ce lo auguriamo, ma continuiamo a fare l'appello che è scandaloso, vergognoso, che si taglino con tutti gli sprechi che raccontiamo ogni giorno e che stiamo anche per raccontare, si taglino su 350 milioni di fondo che serve alle famiglie che hanno un parente non autosufficiente, che sia il figlio o il genitore, poco cambia. Era già stato ridotto da 500 a 350 milioni, tagliarne altri 100 vuol dire tagliarne quasi un terzo. Per che cosa? Per risparmiare 100 milioni. Ripeto, tagliate 100 milioni in più ai ministeri o, agli enti locali, ai 4 miliardi alle regioni. E a questo proposito faccio notare che il Presidente del Consiglio oggi ha dichiarato che, e su questo i dati sono assolutamente dalla sua, che il numero degli impiegati pubblici in Italia non è più alto degli altri paesi europei. Il problema della pubblica amministrazione è l'organizzazione interna e anche l'incapacità di offrire un sistema meritocratico, e quindi vengono messi sullo stesso piano quelli bravi e quelli che rubano. Allora, su questo qualche notizia ce l'abbiamo, perché ricorderete la levata di scudi quando il governo annunciò la manovra di stabilità e 4 miliardi in meno per le regioni. Ricorderete gli interventi che abbiamo avuto in diretta, presidente della regione Basilicata, della regione Calabria, del Veneto, della Lombardia. In Calabria, in Basilicata, non riusciremo a garantire i servizi sanitari, sempre la solita manfrina. Ebbene, qualche nuova idea su dove possono tagliare le regioni ce l'abbiamo. Solo le principali, perché ce ne sarebbe per tutti. Allora, faccio notare per esempio che il Piemonte ha debiti per 2 miliardi e mezzo che sono spariti dal bilancio. La Corte dei Conti ha negato in parte la certificazione del bilancio, così come l'ha negata la Corte dei Conti anche a altre regioni, alla provincia autonoma di Bolzano in parte, l'ha negata alla regione Sicilia, l'ha negata alla regione Campania e insomma l'ha negata anche in parte alla regione Liguria. In Liguria c'è un caso incredibile che segnala la stessa Corte dei Conti, che ha negato appunto il timbro su 91 milioni di residui attivi. Sono crediti che in realtà non vedranno mai, ma la regione continua a metterli come se dovessero essere dovuti e potessero essere intascati. Allora, il bonus fino al 20% della paga, dato in più chiaramente, dato ai direttori delle aziende sanitarie liguri. Ma è incredibile questa vicenda, perché la dice lunga su come vengono dati i bonus delle volte. La Corte dei Conti parla di stortura perché l'obiettivo di produzione del premio di produzione 2013 ai dirigenti ASL viene fissato, pensate un po', un mese prima della fine dell'anno stesso, a un livello molto vicino, no? Quindi è impossibile mancarlo, perché se hai un mese il premio praticamente è lì, o quel mese lì veramente impazzisci o il premio lo becchi. Allo stesso modo facciamo notare che moltissime di queste regioni hanno delle partecipate in perdita. Penso alla Sardegna, continue risorse alle partecipate in perdita senza contratti di preavviso. Faccio presente che la campagna attivi inesistenti per 3 miliardi, faccio presente che in Calabria la proliferazione è delle, l'abbiamo raccontato anche noi, delle aziende partecipate è incontrollabile, ci sono debiti fuori bilancio per quasi 27 milioni, in Basilicata le 6 società partecipate non hanno obiettivi gestionali, non sono in rete fra loro. Allora, su questo, e non posso elencarvi tutte le storture delle partecipate, pensate che solo in Sicilia le società partecipate alla regione hanno 7.300 dipendenti, ma la logica è molto semplice: quando queste partecipate, a maggior ragione quando non perdono, non raggiungono gli obiettivi, non hanno obiettivi gestionali, vendetele, chiudetele e vedrete che i soldi si recuperano, poi penseremo alla spesa sanitaria, ma iniziate a vendere le partecipate. E mi riferisco anche alla Sardegna. Pensate che in Sardegna praticamente nella redazione del bilancio si usa l'esercizio provvisorio di bilancio approvato a maggio, ma questo cosa ha voluto dire? Che nel frattempo, mentre approvavano l'esercizio provvisorio, i legislatori sardi hanno anche approvato leggi senza alcuna copertura finanziaria, rinviando per le coperture proprio la legge di bilancio, che sarebbe come se lo Stato facesse delle leggi e non indicasse la copertura finanziaria. Penso un po' come reagirebbe Bruxelles, cioè prima spendo e poi troverò le coperture. Ma stiamo impazzendo veramente, no? E se tu non hai la copertura perché sei in esercizio provvisorio di bilancio, non puoi fare la legge e ti devi fermare, se no siamo capaci tutti. Comunque, valore degli sprechi nella sanità regionale: 23 miliardi di euro nel solo 2013, altro che 4 miliardi. Ma non voglio entrare sul resto. In Sicilia pensate che solo il 50% delle leggi ha una relazione tecnica che ti fa capire anche l'impatto che può avere sui conti una legge. La Sicilia comunque vanta il record di un dirigente ogni 8 dipendenti contro 1 su 16 nelle altre regioni. Voglio andare rapido sul resto e restare sui dirigenti pubblici, perché le amministrazioni, i comuni, le regioni, quando parlano sono sempre sul tracollo finanziario. Eppure al comune di Perugia i 36 dirigenti si sono divisi 188.000 euro di premi, 5.200 a testa, tutti bonificati a inizio 2014. Chi non ha raggiunto gli obiettivi ha preso il premio lo stesso, un po' più magro, 2.000 euro. Ma dici, quali saranno gli obiettivi di questi dirigenti? Beh, far riaprire in tempo i bagni pubblici di via Boncambi è un obiettivo, cioè, dovrebbe essere parte del tuo lavoro, no? Tra l'altro manco li hanno riaperti. Due dirigenti hanno avuto un premio per questo, cioè uno a bagno, e meno male che i bagni erano due. Celebrare i 50 anni del gemellaggio tra Perugia e Bratislava, lo sanno Bratislava, sì, boh. Spese coperte per metà degli sponsor, le celebrazioni le hanno fatto, ma questo vale un premio al dirigente del comune. E poi c'è il mitico premio 8.721 euro, complimenti alla ragioniera Luciana Lucarelli, da 3 giorni pensionata, si è vista dare un premio per la razionalizzazione del servizio di inventario dei beni mobili attraverso l'aggiornamento informatico delle attrezzature presenti nelle strutture. Traduco: ha contato le scrivanie e i computer presenti negli uffici e ha messo questo numero sul computer. Ride in regia, è così. Cioè, la razionalizzazione del servizio di intervento dei beni mobili attraverso l'aggiornamento informatico delle attrezzature presenti nelle strutture vuol dire che devi mettere in maniera informatica il numero di attrezzature presenti nelle strutture. Siccome di solito non ci sono mitragliatrici o cannoni nei comuni, ma ci sono scrivanie e computer, sedie, per carità, il come si dice, il mobiletto, le luci presenti, tutto bene. Anche se questo farebbe parte del tuo lavoro normale, no? Tu immagini che l'amministrazione comunale di Perugia sappia già quante lampade e computer ha. Però se lo devi fare, devi dare anche un premio, giustamente, 8.721 euro. Ma niente E qui va tutta la nostra ammirazione all'avvocato Mario Cartasegna. Ex dipendente, tra stipendio fisso e premi per cause vinte, è andato a riposo con un super vitalizio, 53.000 euro al mese. E ogni tanto sembra che usi ancora l'auto blu da ex. E chiudiamo proprio su questo, sui bonus e sul tema che a noi sta molto a cuore, dei vitalizi. Abbiamo cercato Luigi Corbani, ci ha fatto sapere Luigi Corbani chi è innanzitutto. È un ex consigliere regionale della Regione Lombardia, ex migliorista nell'ex PCPDS, che sta da ex PCPDS gestendo come un masaniello per il popolo la rivolta degli ex consiglieri regionali contro il taglio dei vitalizi. Quella pensione che a nostro modo in maniera indebita percepiscono tutti, legale, perché era legge. Il Pirellone 2 anni fa gli ha eliminati i vitalizi per i nuovi consiglieri, ma spende tuttora 7 milioni e mezzo all'anno per pagare i vitalizi a ex consiglieri che non si capisce per quale motivo, solo per aver fatto il consigliere regionale, hanno diritto a una pensione a vita. Allora, Luigi Corbani è alla testa dell'associazione, perché abbiamo pure l'associazione contro la legge taglia vitalizi. Gli avvocati sono al lavoro, ha detto Corbani, le carte sono praticamente pronte e faremo un ricorso alla Corte dei Conti, alla Magistratura Ordinaria e al TAR. Complimenti. Che cosa prevede la legge lombarda sui tagli vitalizi? Prevede che i 220 beneficiari del vitalizio, che costano, per dirla in maniera mensile, 620.000 euro al mese, ricevono un taglio del 5% per gli assegni fino a 1.500 euro, fino a un massimo del 16% per chi guadagna niente, per chi riceve 4.500 euro. Poniamo il vitalizio più alto, che è di 6.300 euro lordi, invece che tradursi in 4.367 euro netti, si fermerebbe a 3.691 euro. Volevo farlo partire un po' dopo l'applauso, però insomma l'applauso ci sta comunque. 3.691. Ora, per questo motivo tu impugni tutto. Complimenti. Luigi Corbani, quando vuole, noi siamo qui, eh? È lei che non ci vuole parlare finché non sono fatti i ricorsi. Ma visto che la sua posizione è chiara, ce la venga a raccontare in radio. A 7:42 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. No, non voglio continuare con la pubblica amministrazione, tanto lo sapete che è un appuntamento quasi quotidiano, però confermo, Luigi Corbani lotta per loro, lotta per tutti gli ex, lotta per noi, no, lotta per tutti gli ex consiglieri della Regione Lombardia, lotta dura e senza paura, senza vergogna anche. Allora dai, basta, sennò poi mi querela Corbani, così si fa pure i soldi con me. Allora, veniamo al tema della ST Terni, perché io, ripeto, l'amministratore legato può fare qualunque cosa, ma io chiedo, ma Lucia Morselli, l'abbiamo cercato l'amministratore legato della ST Terni, abbiamo cercato anche il responsabile del personale, la linea che ci hanno detto è non parliamo con la stampa, non facciamo comunicazioni, ma ha bloccato il pagamento degli stipendi dei dipendenti dell'acciaieria fino al termine degli scioperi in fabbrica, gettando nuova benzina sul fuoco. La UILM sta decidendo se avviare un procedimento legale per attività antisindacale. Paolo Bricco, questo rischia, buonasera, adesso alle 24 ore innanzitutto, buonasera, buonasera Paolo. Buonasera a te e buonasera a tutti i radioascoltatori. Questo rischia di poter così bloccare le trattative in corso. Ti vorrei far ascoltare prima la risposta, però, anche quanto ha detto oggi da Brescia, patria tra l'altro dell'acciaio italiano, il Premier Matteo Renzi proprio sulla ST Terni. Noi non possiamo pensare di fare a meno dell'acciaio e della siderurgia in un paese che crede di essere un paese all'avanguardia, e lo è e lo vuole continuare ad essere. Poi ci sono casi e casi. Io credo che a Terni si possa arrivare a una soluzione di accordo recuperando la capacità di dialogo, e per la mia esperienza il sindacato, quando si trova a fare il sindacato e a contrattare sui posti di lavoro e le condizioni, è in grado di farlo bene. E quando il sindacato fa il sindacato e si occupa dei lavoratori, io credo che sia una funzione fondamentale e faccio di tutto perché questa funzione sia difesa. Ma credo anche che sia arrivato il momento di dire che da Taranto a Piombino o il sistema paese avanza una proposta nuova per uscire dall'impasse nella quale siamo, o non ci sarà modo di garantire un futuro alla siderurgia in Italia. E in questo senso, in questa direzione, mi sento personalmente impegnato. Allora, Paolo Bricco, se ho ben capito, dice Renzi, cerchiamo di sistemare le vertenze aperte, Ilva di Taranto, dove ho visto che purtroppo i soldi della famiglia Riva sono transitati alle Cayman, c'è una rogatoria in corso. Comunque, Ilva di Taranto, Piombino e ICT Terni, che sono tre vicende molto diverse tra loro, con un unico purtroppo comune denominatore, la crisi dell'acciaio. Noi, acciaio che va benissimo nel resto del mondo, cioè non è che ci chieda meno acciaio, noi siamo secondo i produttori, noi abbiamo un problema proprio di dimensioni e di capitali a questo punto. E però dice, attenzione, però dopodiché affrontiamolo complessivamente, perché sennò non riusciremo a tenere botta alle dinamiche globali. Vorrei un tuo commento su questo e anche su quanto ha deciso la Thyssen, in maniera a mio avviso improvvida, di bloccare gli stipendi dei dipendenti perché scioprano. Beh, su quanto ha deciso la Thyssen sono d'accordo che la scelta è improvvida, sbagliata, e rischia di mandare in fibrillazione una situazione molto grave, anche perché è stata presa da una società, appunto la Thyssen Group, che in Italia non soltanto adesso si comporta in questa maniera, ma in passato, ad esempio su Torino, ha avuto una serie di problemi non irrilevanti. No, sono, e morte delle persone, sono morte, cioè, delle persone, un, e quindi come dire, forse sarebbe stata, dal punto di vista della corporate image, dell'identità aziendale, un profilo più basso. Anche corporate image, qua basta il buon senso, ecco, nel senso, tu hai avuto un processo per quello che è successo a Torino, dove sono morti gli operai, hai un'avvertenza in corso in cui il governo cerca di mediare, di portare gli esuberi da 290, da 550 iniziali, poi 290, forse 140, hanno caricato, non c'entra niente da Thyssen, c'è un errore palese a questo punto del Ministero degli Interni, dell'autorità di polizia, nella gestione della manifestazione di Roma. Hanno caricato gli operai, che non si vedeva non so da quanto, operai che manifestavano per il diritto di sciopero. Adesso gli devi pure lo stipendio perché hanno scioperato, che anche questa è una misura che non si vedeva. Io non sono un sindacalista, ma voglio dire, peraltro, togli lo stipendio, dicono a Milano, è come mettere il sedere davanti al piede in questi casi. Prego. Togli lo stipendio a operai e impiegati che operano in un'azienda che è un'azienda sana, che purtroppo ultime vicissitudini negli ultimi due anni ha avuto bloccati tutti gli investimenti in innovazione, in ricerca, pur operando in un segmento che sono gli acciai speciali, che è il futuro della siderurgia non italiana ma europea. E quindi, come dire, il massimo della contraddizione è il massimo dell'esplosività. Sì, ma poi adesso, ripeto, noi i sindacati li abbiamo attaccati più volte in questo programma per aver bloccato soprattutto una pubblica amministrazione, ma non solo, il paese, per logiche sempre no, anche nella vicenda d'Italia. Ma attenzione, ma non si è mai visto che se uno sciopera non gli paghi lo stipendio? Cioè, questo è ovvio che la UILM va per gli estremi dell'atteggiamento antisindacale, perché allora eliminiamo il diritto di sciopero, come ha proposto in maniera altro improvvido della situazione Davide Serra in quella famosa Leopolda, poi tutti a correggere, lui non ha detto questo, ha detto solo in alcuni casi, comunque ha detto una cavolata e basta. Perché vai in quella direzione, se tu devi levare lo stipendio, già viene elevato giustamente lo stipendio nel giorno in cui scioperi, lo spiego a tutti, ma dire che tu non paghi gli stipendi finché continueranno gli scioperi è, a mio avviso, una follia vera e propria, perché insomma stai parlando di un'azienda sana in cui hanno menato gli operai per sbaglio, mettiamola così, per un errore, per cattiva gestione dell'ordine pubblico, in cui il governo sta facendo una trattativa, non so cos'altro vogliono fare alla Thyssen Group per diventare, capito, prendersi l'Oscar della simpatia in questo paese. Sembra quasi, come dire, la riproposizione davvero di uno stile di governo alla Scelba, però intendo dire, quel periodo lì sono 50-60 anni fa, e davvero mi pare che Thyssen Group... Ma poi non serve, cioè, oltretutto hai anche un danno, perché rischi di bloccare tutto. Dimmi una battuta, perché poi le informazioni sul traffico, se ci sono invece sviluppi sul fronte sul fronte della trattativa con la Thyssen? Sviluppi per adesso no. Invece è importante capire che cosa significa bene le parole del Presidente del Consiglio Renzi, che quando dice che si può pensare a una soluzione di sistema per quanto concerne l'acciaio italiano, in qualche maniera aggiunge parole e significato alle parole dell'altra settimana di Gorno Tempini, capo azienda, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, il quale ha detto che la CDP ha sul tavolo il dossier siderurgico. Ora, io credo che per una radio come la nostra, per un gruppo come il nostro, questo sia una questione importante da iniziare ad affrontare già adesso, nel senso che che cosa vuol dire questo? Se la CDP che si ritorna all'acciaio di Stato, oppure che in qualche maniera il governo sta studiando le modalità per riuscire a dare un sostegno di soldi che sono del risparmio postale, le nonnine che fanno i buoni postali a favore dei nipoti e delle nipotine, in maniera tale che ci sia una corretta interrelazione tra mercato e intervento pubblico. Io credo che in questo momento tradotto vuol dire o tu la salvi tutta, nel senso, allora fa di nuovo l'acciaio di Stato. Che era l'Ilva prima di essere venduta nel 95 ai Riva, oppure entri con una quota nel capitale, però assieme dei privati, perché certo. Non è un mistero che da più parti si sia evocato il nome, per esempio, del gruppo Marcegaglia nell'interesse per l'Ilva, cioè di una cordata italiana che tenga l'acciaio in Italia con una partecipazione, diciamo, del rischio anche della CDP. Anche se bisogna ricordare che comunque CDP e Fondo Italiano possono soltanto investire in società che non perdono, e quindi il problema dell'ingegneria finanziaria, di come pensare a fare questa cosa, è un problema prima di tutto politico. Vedremo Renzi che cosa dirà nelle prossime giornate. Però hai ragione a sottolineare la nota che è politica, ma anche di politica economica, perché dice bisogna trovare una soluzione complessiva, cioè adesso tamponiamo la vicenda ST Piombino, però poi decidiamo dove va a finire e confluire l'acciaio italiano. Grazie Paolo Bricco. Di nuovo in diretta, no, adesso sulla Thyssen Group evitiamo di andare troppo in là, è inutile ricordare, qualcuno dice ecco vede che se l'è presa con la Germania, no non me la sono presa con la Germania, oggi almeno no, con la Thyssen sulla gestione della vicenda sì, non me ne frega nulla, adesso non andiamo sul fatto che la fortuna del gruppo di Thyssen Group derivi dal nazismo, da tutti i deportati che vi lavoravano, è inutile ricordare questa cosa, si va indietro col tempo, parliamo del presente, i rapporti tra Thyssen Group e nazismo sono ben noti, ma non c'entrano con la situazione attuale, sarebbe sbagliato ricordarli. Allora la borsa, poi parleremo anche della vicenda Moncler, è già in linea? Allora, un attimo solo che prima vi do i titoli. Allora, ci ha raggiunto in linea, per quello che non capiamo, il dottor Manfredi Ricca. Buonasera innanzitutto. Pronto? Non lo sentiamo, non è in linea. Io vado con i titoli allora. Un po' di confusione oggi in regia. Yux più 6%, ST Microelectronics più 1,80%, Monte dei Paschi più 1,50%. Fronte opposto invece, Snam Rete Gas meno 11,30%, Terna meno 6,70%, Moncler meno 4,90%, Enel meno 4,20%, come Exor. A2A meno 3,26%, Campari meno 3%, Atlantia meno 2,60%, come Enel il 2,5% lo perde Intesa San Paolo, e CNH Industrial perde il 2,30% come Finmeccanica. Parleremo dopo di Moncler, intanto adesso ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, dottor Manfredi Ricca, buonasera. Non ce l'abbiamo, allora non vanno le canali oggi, inutile che continuiamo con questa saga. Dicevo, Snam Rete Gas perde l'11,30% per un motivo molto chiaro, cioè c'è tutto un ricalcolo che ha fatto l'autorità per l'energia, il nuovo tasso di remunerazione del capitale investito netto per lo stoccaggio del gas naturale. Il tema è molto tecnico, però diciamolo tutta, alla fine c'è un impatto negativo sugli utili stimato dagli analisti tra il 6 e il 9%, e il titolo perde di conseguenza, che è il motivo per cui cala anche Terna del 6,70%. Dopo il GR24 commenteremo con i colleghi di Radio Cor gli altri titoli. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo di borsa. Vedo che qualcuno mi scrive sui vitalizi. Io, onestamente, sui vitalizi e gli ex consiglieri regionali, ma è meglio star zitti, dicendo lei deve dire che le baby pensioni ci costano 9,5 miliardi. Va bene, ma stavamo parlando dei vitalizi, e i vitalizi costano quello che abbiamo detto alla Regione Lombardia. Comunque, Manfredi Ricca è in collegamento, pronto? Buonasera. Buonasera. Moncler è il caso. So che lei non si occupa di analisi di titoli, ci mancherebbe, ma è il curatore per la parte italiana della classifica che ogni anno anche noi presentiamo sui marchi che hanno maggior prestigio come valore aggiunto sui singoli marchi. E un caso come quello di Moncler, che è un caso di borsa perché ha perso il 4,90%, ma è un caso giornalistico, e parlo dello spiumaggio delle oche ungheresi, dei migliaia di tweet e di messaggi negativi. Ecco, è un caso di scuola su cui quanto, diciamo, l'immagine che spesso uno tende a sottovalutare, la corporate image da CSR, in realtà abbia un impatto economico immediato? Assolutamente, credo che mostri il collegamento diretto che esiste. Il brand ha come scopo quello di mitigare il rischio, è uno degli scopi, quindi non solo quello di creare domanda, ma soprattutto di mitigare il rischio d'impresa. Evidentemente, nel momento in cui il brand viene accusato, a torto o ragione, ma non è questo il punto, di seguire delle pratiche che non convincono la clientela, evidentemente viene a cadere uno dei principali mitigatori di rischio, e quindi si riverbera, cioè il titolo diventa più rischioso in quanto il brand non è in grado di sostenere quella domanda. In tutto questo, però, rispetto a una volta, Manfredi Ricca, la forza dei social networks ha fatto una differenza. Voglio dire, anche una volta io ricordavo il caso più celebre, quello del latte in polvere della Nestlé, che danni creò alla Nestlé stessa. Però, scusatemi, però una volta veniva mezzo stampa, radio, televisioni o giornali, questo era. Adesso in realtà non è tanto la ripercussione a mezzo stampa, non è il fatto che i giornali ne abbiano parlato oggi, ma è quello che si è generato sui social networks, a mio avviso, ad avere impaurito molto gli investitori e gli analisti, o no? Credo che siano due effetti che hanno un risultato dirompente. Il primo è che si guarda di più a queste cose, cioè oggi la clientela e soprattutto le generazioni più giovani non vedono le pratiche di corporate social responsibility come un accessorio, ma lo esigono da parte di un brand in molte categorie, e questo è qualcosa che le vecchie generazioni devono abituarsi a considerare, quindi già l'impatto è molto maggiore, non è una cosa bella da avere, ma una cosa necessaria da avere su tutto un target di clientela. Cioè delle pratiche considerate eticamente corrette non sono più un qualcosa per, la traduco in maniera un po' brutale, per abbellirsi o per avere un'immagine ancora migliore, ma sono una necessità a prescindere, non so come dire, non è più un qualcosa in cui puoi investire perché ti va di avere, di migliorare la tua immagine, ma se non lo fai è una condizione necessaria anche se non sufficiente. Esattamente, e secondariamente non solo questo è più importante, ma come giustamente lei osservava si riverbera molto più in fretta per due motivi. Uno, perché è vero, esistono i social network e quindi il potenziale virale è molto più forte, ma perché noi ad esempio stiamo adesso parlando del potenziale virale, quindi addirittura non solo i tweet, i social network riprendono la stampa, ma poi la stampa riprende i social network e i tweet, quindi si genera un effetto di feedback costante, e quindi si tratta non solo di un argomento più importante, ma un argomento che poi diventa suscettibile di raggiungere dimensioni planetarie. Sì, molti scrivono anche sul prezzo, qual è il costo di più o meno, il prezzo di più o meno. Devo dire che lì io sono un po' più prudente, nel senso che se andassimo ad analizzare per ogni comparto e ogni settore, è chiaro che tu paghi un marchio, cioè che probabilmente a parità di prodotto prodotto, non so come dire, delle volte tu paghi anche il marchio, ma questo sta nella forza del marchio stesso. Assolutamente, i brand hanno lo scopo di rendere meno sostituibile un bene o un servizio e di conseguenza l'impatto ci può essere sul pricing e questo però è normale, nel senso che ognuno di noi come cioè vale per le scarpe da ginnastica delle volte come per ognuno i capi d'abbigliamento di scegliere. È libero di scegliere di vedere in Moncler un marchio per cui vale la pena di pagare un addendum rispetto al prezzo di base che uno pagherebbe per quel prodotto o meno, ma questo è assolutamente... Ma vale anche in un settore come quello del vino, vuol dire ci sono vini che uno potrebbe giudicare simili, solo che uno è di maggior prestigio, fa più figo, posso dirla così, e ha un carico sulla bottiglia molto molto più alto. Esattamente. Devo dire una cosa, che in questo caso però nessuno obbliga qualcuno a comprare un piumino piuttosto che un altro. Se uno ritiene che in quel marchio ci sia un valore aggiunto che giustifichi il prezzo, se lo compra. Se invece ritiene che può avere un piumino di altro genere e non di un marchio anonimo, non gliene frega nulla del marchio, pagherà di meno. Questo mi sembra una cosa un po' più scontata. Altra cosa invece è il danno di immagine sui principi etici, quello invece è molto più delicato e molto più pernicioso, perché tu al di là del prezzo non puoi, diciamo, avere comportamenti considerati non etici. Grazie anche a Manfrederica e ringrazio allo stesso momento per averci aggiunto in collegamento anche Guido Maurino di Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera Guido. Buonasera. Al di là di Moncler, faccio notare che l'indice complessivo ha perso il 2,1%, Francoforte meno 0,80%, Parigi meno 0,90%, Londra meno 0,90%. Di Snam Rete Gas abbiamo già detto meno 11,30% e porta con sé anche Terna meno 6,70%. È nel meno 4,20%. Invece si è molto ridotta la crescita dei Monte dei Paschi, alla fine più 1,5%. Guido. Sì, per quello che riguarda Monte dei Paschi, nel fine settimana c'è stato l'annuncio della ricapitalizzazione per venire incontro alle richieste della BCE dopo gli stress test. Oggi alla prima prova del mercato il titolo ha sostanzialmente passato la prova, anche se dobbiamo ricordare che arrivava da un meno 40% fatto segnare la scorsa settimana, dove spesso si erano visti cali a due cifre. Collegato un po' al discorso del Monte dei Paschi, possiamo mettere anche il buon andamento, più 3,29% di Banca Carige, sì. Anche qui c'è l'aumento di capitale e anche qui ci sono indiscrezioni di stampa che darebbero come possibile un ingresso del finanziere Andrea Bonomi all'interno della ricapitalizzazione, una notizia che è stata positiva oggi per l'Istituto Genovese. Allora, Fiat Chrysler più 0,11, ma in un giorno in cui si è saputo che la Chrysler in America ha fatto più 22% nel mese di ottobre, il miglior ottobre dal 2001 per quello che riguarda le vendite di Fiat Chrysler negli Stati Uniti, e invece si è molto sgonfiata Telecom Italia, meno 0,50% nel finale. Sì, nel corso della mattinata e anche il primo pomeriggio era andata abbastanza bene, dopo la notizia arrivata questa mattina che l'operatore francese Altice ha presentato un'offerta da 7 miliardi di euro per rilevare Portugal Telecom dall'operatore Oi, un operatore brasiliano. Questo ha riacceso un po' tutta la partita di quello che deve succedere nelle TLC in Brasile, aggregazioni e cose varie. E proprio visto che Telecom ha questa partecipazione in Brasile, Team Partecipazione aveva beneficiato un po' delle ipotesi varie di riassetto. Nel finale si è un po' sgonfiato il tutto, il titolo ha ceduto mezzo punto percentuale. Ancora tra i titoli segnalo Yux più 6%, novità su Yux? No, diciamo che il titolo era sceso sotto i 15 euro per azione, ha leggermente rimbalzato oggi e si inizia anche a speculare soprattutto su quello che saranno i conti che arriveranno mercoledì, visto che quelli della concorrente ASOS della scorsa settimana erano stati particolarmente positivi. Grazie, grazie a Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, migliori e peggiori in assoluto. Fintel Energia Group più 9,50, RCS, Rizzoli Corriere della Sera più 6,5. E poi Sacom più 6, AF più 5,20, Anima Holding più 3,86. Peggiori, oltre Snam e Terna, Edes meno 6,20, Caltagirone meno 5 e appunto Moncler meno 4,90%. Adesso il traffico e poi l'intervento, il doppio intervento, sia quello del Presidente del Consiglio Matteo Renzi che del Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, oggi all'Assemblea degli Industriali Bresciani. We'll be right back. stress test dicono che la stragrande maggioranza del sistema bancario italiano è in grado di affrontare le sfide del futuro. E quelle aziende, quelle realtà bancarie che hanno incontrato delle difficoltà stanno lavorando alacremente per trovare le soluzioni che sono a portata di mano per superare la fase di difficoltà. Quindi io sono profondamente ottimista sul fatto che, senza abbassare la guardia, il sistema bancario possa essere accompagnato in una fase nuova. Però il passaggio successivo, una volta superato tutto lo stress test e i postumi dello stress test, è quello di ragionare insieme e di riflettere su due cose. Uno, quali devono essere le regole per le banche? Due, come aiutare le banche indipendentemente dagli strumenti tecnici e dai grandi dibattiti sui vincoli a fare finalmente credito a realtà che talvolta sono talmente piccole che basterebbe un niente per salvarle. Il mondo del credito in Italia ha bisogno, una volta superata questa fase, di una discussione serena, di una discussione tranquilla, ma di una discussione molto seria su che cosa vogliamo far fare alle nostre banche da grandi. E credo che da questo punto di vista l'Italia, che non ha messo soldi per salvare le banche come tanti altri paesi, che ha impiegato molto meno di altri paesi e che non vuole fare la gara con gli altri paesi, ma sarebbe in condizione di farla, dovrà farsi sentire con maggiore determinazione a tutti i tavoli, anche a quello europeo. Questo è un passaggio dell'intervento di oggi di Matteo Renzi all'Assemblea degli Industriali Bresciani relativo alle banche, e per quello abbiamo fatto sentire a ridosso dei mercati finanziari. Sì, va detto che la seconda è una cosa interna all'Italia, come mettere assieme attorno a un tavolo banche e piccole e medie imprese, ma la prima riguarda solo il governo. Devi andare in Europa e iniziare a chiedere un trattamento diverso per il nostro sistema di credito, perché non possono vincere come criteri, mi riferisco a Basilea 3, all'EBA, le banche che investono molto in derivati e titoli finanziari e essere penalizzate le banche che prestano alla piccola e media impresa. Se no, il secondo asse non lo risolverai mai, perché le banche ti dicono: sì, ma se noi prestiamo soldi alle piccole e medie e veniamo penalizzati come accantonamenti, cioè dobbiamo mettere da parte più soldi, conviene, per queste regole europee fatte tra Francoforte e la City di Londra, conviene fare investimenti in titoli e strumenti derivati, anche se rischiosi, perché devo accantonare di meno. Ma era soprattutto di politica economica e di relazioni sindacali con il mondo del sindacato del lavoro che si è parlato oggi a Brescia, e scontri inclusi. Ha seguito tutta la giornata la nostra Raffaella Calandra. Raffaella, buonasera innanzitutto. Sì, buonasera, ciao a te e ai nostri ascoltatori. Abbiamo già fatto ascoltare in apertura la parte che riguardava l'intervento di Renzi. C'è un disegno per spaccare in due l'Italia, contrapponendo lavoratori e imprenditori, ma l'Italia è una sola. Renzi è intervenuto anche sulla meritocrazia, sugli impiegati pubblici. Raffaella. Sì, quello sicuramente è stato il passaggio più forte. Renzi ha più volte puntato il suo discorso sul senso dell'urgenza che muove il suo governo, cioè sulla necessità dei cambiamenti, e perché ha detto che è finita l'era del si farà, ora o mai più, ha scandito il premier dal palco, convinto che se facciamo ciò che abbiamo promesso, l'Italia dei prossimi anni sarà locomotiva in Europa. E una delle promesse è proprio quella di un rinnovamento verso la semplificazione e la meritocrazia. Sentiamolo. Il numero degli impiegati pubblici in Italia è, suonerà un paradosso, non più alto di quello degli altri paesi europei. Il problema è non soltanto la mancanza di organizzazione interna che porta a duplicare e a fare alle stesse istituzioni le stesse cose rinviando i problemi, ma la incapacità di offrire un sistema di meritocrazia interno che mette sullo stesso piano quello bravo e quello che ruba lo stipendio. Non è un problema di numero, paradossalmente, è un problema di incapacità del sistema Stato e talvolta del sistema regionale e delle amministrazioni locali di riuscire finalmente a creare un meccanismo per il quale chi vuole lavorare possa farlo, ma non vi siano le sovrapposizioni per cui tutti fanno le stesse cose, con il risultato, che lo sapete meglio di me, esperti di organizzazione, che quando tutti fanno la stessa cosa accade che quella cosa non la fa nessuno, ma tutti possono avere un alibi per cui quella cosa non è stata fatta. Togliere gli alibi. Così appunto il Presidente del Consiglio, e poi è intervenuto anche il Presidente di Confindustria, Raffaella. Sì, il Presidente di Confindustria Squinzi ha pubblicamente avuto parole di apprezzamento per la coerenza e il coraggio, ha detto, del governo Renzi, che si è assunto il pesante fardello di far uscire l'Italia dalle secche di culture sorpassate. Un chiaro apprezzamento per l'azione del governo che ha fatto il Presidente Squinzi con queste parole. Signor Presidente del Consiglio, lei si è assunto il pesante fardello di far uscire l'Italia dalle secche di regole e culture sorpassate che sappiamo ci condurrebbero a un lento ma inarrestabile declino. Di questo arduo impegno non possiamo che esserle grati, se ne sentiva la necessità. Non bisogna temere, anzi bisogna attendersi qualche dispiacere e non poco dissenso. Sono resistenze dovute a inerzie e privilegi del passato, di cui un po' tutti hanno beneficiato. Qui, come in altre nostre assemblee, ha troccato con mano che non è e non sarà solo. La legge di stabilità appena presentata introduce una significativa discontinuità rispetto al passato, per l'attenzione data alla competitività, con la riduzione del costo del lavoro attraverso il taglio dell'IRAP e la cancellazione per 3 anni dei contributi sociali sulle nuove assunzioni effettuate nel 2015. I saldi della manovra ci dicono che essa non può dirsi pienamente espansiva, ma certamente limita dosi ulteriori di ristrazione della domanda. In un'economia già duramente privata come la nostra è molto. Il valore della manovra è, se mi consentite, soprattutto fondato sulla restituzione di fiducia, aiutare gli italiani a uscire dalla spirale recessiva e a credere che una lunga stagione negativa ce la possiamo lasciare definitivamente alle spalle. Il punto cruciale sono gli investimenti. Qui, a nostro avviso, la manovra fatica. Quindi un giudizio tutto sommato positivo anche a Saito Squinzi: si può fare di più, soprattutto su investimenti, ricerca e l'IMU per le imprese. E poi la famosa frase del fardello, che secondo me, Raffaella, domani, assieme alla frase di Renzi, non ci sono due Italie, ma è un'unica Italia, farà il titolo dei giornali, così come lo faranno, immagino, anche alcuni scontri che vi sono stati, manifestazione della FIOM da un lato e centri sociali dall'altro, di fronte alla sede dove si teneva l'assemblea degli industriali bresciani. Quella di oggi è stata la giornata in cui tutte le tensioni intorno al mondo del lavoro si sono, possiamo dire, trasferite a Brescia, all'interno della fabbrica Palazzoli, dove è avvenuto l'incontro tra il premier e gli industriali. C'era da una parte, come dicevi, fuori il corteo della FIOM, un presidio, e poi una delegazione ha anche incontrato il premier, come chiedevano, criticavano il Jobs Act e lamentavano appunto il fatto di non essere ricevuti dal premier. Dall'altra parte però poi c'è stato un corteo con gli antagonisti del centro sociale Magazzino 47, ed è qui che ci sono stati momenti di più tensione, perché hanno provato a forzare i cordoni, sono volate uova, sassi, la polizia ha caricato per 2 volte ed è finita alla fine con 2 agenti feriti e con diversi contusi. Questo chiaramente ha reso il clima dell'attesa dell'arrivo del presidente Renzi molto più difficile, ma anche questo forse è uno specchio delle tensioni di questi giorni intorno al lavoro. Grazie a Raffaella Calandra, appunto inviata per Radio 24 a Brescia. La puntata sta finendo, devo però leggere un messaggio che, a mio avviso, un po' di dubbio lo mette, e il riferimento alla vicenda Moncler, il servizio di report ieri sulle oche e su come vengono trattate le oche, oltre che sui guadagni. Sui guadagni ribadisco, se andiamo a guardare quant'è il valore, quanto si paga il marchio, non è più finita. Alcuni beni costano molto di più, non solo per il valore intrinseco del bene, ma perché il marchio, questa è una cosa arcinota nel mondo della moda, ma non solo, ma perché il marchio garantisce prestigio al di là del bene, valore intrinseco del bene. Detto ciò, scrive un ascoltatore, mi sembra un po' ipocrita preoccuparsi, giustamente indignarsi, per il trattamento delle oche della Moncler e non per il trattamento degli operai nella produzione dei componenti di vari, lui cita l'Apple, ma insomma, allora è vero, su questo possiamo anche ragionare, va bene le oche, allora iniziamo a ragionare su dove viene prodotta la merce, qual è il trattamento delle persone che questa merce producono. Temo che sarebbe un vaso di Pandora. Comunque, Mancavano le ocche da Moncler oggi, il titolo ha preso una bella mazzata, vedremo se vi saranno cause legali come sembra annunciare la Moncler. Noi ne parleremo domani, eventualmente, in un'altra puntata di Focus Economia dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barigioni, l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.